Radio 24 Reportage. La solitudine delle case bianche tra topi e degrado, aspettando il Papa, di Raffaella Calandra. Ora sono comparse pure le telecamere all'864. I cassonetti sono vuoti, almeno davanti alla cappella della Madonnina, eppure la carcassa di un'auto bruciata è stata rimossa. Ma se non venisse il Papa, contestano gli abitanti, sarebbe rimasto tutto lì e per una vita. Benvenuti nelle case bianche di Via Salomone, dove il resto di Milano non entra e la fatica di vivere aumenta coi piani. Quanti piani deve fare? Beh, io ne devo fare 5. Qui ci sono tante altre persone molto gravi che non può fare neanche un piano. Quindi e quando c'è l'ascensore rotto? È una presa in giro, come voleva fare il comune di Milano adesso con la venuta del Papa. Voleva imbiancare la facciata per nascondere tutti i problemi. Sai, non è andata come credi te. Cambiare vita non è stato semplice, ma l'ho fatto ed ogni merito lo sento mio. Non è successo che mi ha scelto, fra l'ho scelto io. In realtà la proposta, bocciata dallo stesso pontefice, era dell'ALER, azienda regionale proprietaria degli edifici popolari. Ma poco cambia per chi vive qui. Nell'androne del 52 ora l'ascensore è fermo al 9° piano, come capita spesso in questi casermoni vecchi di 40 anni che sembrano averne più del doppio. E di bianco ormai qui è rimasto solo il nome, il colore dominante invece è il grigio della sporcizia delle scale, delle facciate cadenti, della malinconia soprattutto dei tanti anziani soli per i quali la casa diventa una cella di isolamento quando l'ascensore si blocca. Noi siamo stati 4 settimane senza ascensore. La volta sono andata giù sulla barella, martedì sono andata giù con il seggiolino perché l'ascensore non andava. Adesso l'ascensore, grazie a Dio, l'hanno messa nuova, sono 40 anni che era quella là, speriamo che conservino ancora questa, cioè non la spacchino subito, ecco. Non è facile se sei un numero primo ed indivisibile, dare un peso alle persone. Ancora il fiatone nella voce, la signora Maddalena, dopo una mattinata impegnativa. Lei è una dei tanti over 70, la maggioranza degli abitanti, un migliaio dei 477 alloggi di Via Salomone. Quando entriamo nella sua cucina, tra vecchie foto di Milano e sedie accatastate, sono appena usciti gli operai venuti a consegnarle il letto nuovo, necessario dopo un ricovero vissuto con ansia per il timore di non trovare più la casa al rientro. Il letto è completo e adesso me l'hanno montato, adesso devo solo fare il letto e poi provarlo. Se non ci fosse Giorgio e tutti i suoi volontari, noi saremmo persi. E quali sono i bisogni? Andare a fare la spesa. Se ho bisogno della macchina c'è sempre Giorgio che mi aiuta e tutto. Adesso che è stata all'ospedale, signora, lei ha avuto preoccupazioni per la sua casa? Qua bisogna stare attenti. Il rischio che occupino la casa? Sì. Che poi dopo dicono che la casa è sua e io mi trovo in mezzo alla strada. La paura è anche quella, perché se lei vede lì al terzo piano, la porta è rotta. Perché c'era sulla porta blindata, l'hanno spaccata per entrare dentro. Qua poi sarebbe ancora più facile perché la porta è del vecchio ALER, se ne dà un calcio è già dentro. Per chi vive in un quartiere con queste difficoltà, quali sono le paure principali? Di essere da soli. Essere soli qui può significare anche essere ritrovati in casa senza vita dopo giorni. La solitudine è uno dei mali principali di questo quartiere che molti chiamano ancora col vecchio nome di Trecca. Insieme alla povertà diffusa, alle tante storie al limite, ai problemi delle occupazioni degli alloggi, almeno 60, insieme alle difficoltà di convivenza tra etnie diverse, col 18% che non è italiano. Se il Papa stava a Roma mi faceva un favore. Perché dice questo? Noi. Perché va in casa di due extracomunitari. Hai visto le piante potate, stanno facendo pulizie delle briciclette, delle macchine che ci hanno bruciate. Potevano farlo anche prima, no? Cioè si sono ricordati di questo quartiere perché viene il Papa. Il Papa. Perché viene il Papa. Se no questo quartiere qua era dimenticato da tutti. La via Salomone purtroppo è dimenticata da tutti, non c'è controllo, non c'è nessuna manutenzione, niente. Io a settimo piano, in questi giorni per esempio ho avuto bisogno della Caritas, tutti i giorni mi hanno portato a fare la radioterapia, tutte le mattine. che mi ci portava. Io devo ringraziare sia la Caritas e anche il nostro Signore Gesù Cristo. Lei adesso è scesa a piedi perché questo ascensore non funziona. Non funziona, gioia mia. Si fa difficoltà a scendere oppure a fare la spesa. Io a volte ci rinuncio, gioia, perché non ce la faccio. Ma non sono solo io. Il timore che voi avete, quello di dover andare in ospedale e casomai quella casa viene occupata. Fino adesso no, occupano le case che sono vuote. Ce ne accorgiamo l'uno con l'altro, ci aiutiamo anche nel vicino se abbiamo di bisogno, ci facciamo un po' di compagnia. Un disagio che alimenta una rabbia che non esclude nessuno e su cui invece in molti soffiano. Un disagio a cui ogni giorno la Caritas prova a rispondere, portando la spesa a chi non può muoversi, accompagnando in ospedale o alla posta i più anziani e soprattutto aprendo ogni pomeriggio le porte di un punto di ritrovo, unico fondamentale spazio di socialità in mezzo al niente. Qui il citofono squilla di continuo, come di continuo vibra il cellulare di Giorgio Sarti, 73 anni e un ambrogino d'oro alla normalità per un'intera vita vissuta qui da volontario Caritas. 740 famiglie, 744 famiglie, ci sono più di 200 anziani soli. Quali sono anche proprio i bisogni anche quotidiani a cui voi dovete, insieme al Comune di Milano, a cui dovete far fronte? Per esempio gli accompagnamenti alle visite mediche, aiutarli, accompagnarli magari alla posta piuttosto che in banca per la riscossione della pensione, per alcune situazioni di anziani che magari hanno problemi di analfabetismo, ma soprattutto loro hanno bisogno di avere la vicinanza, l'amore di qualcuno, comunque che piaccia o non piaccia, l'abbandono c'è. Ed è uno dei motivi per cui noi al pomeriggio abbiamo questo locale dove gli anziani vengono accolti in amicizia. Qui il citofono squilla di continuo perché siete un po' il punto di riferimento dell'intero quartiere, un quartiere dove, ahimè, appunto mancano anche proprio i piccoli negozi che servono per la quotidianità. Siamo qui dove gli anziani al pomeriggio vengono, un locale colorato, accogliente, ben ristrutturato, ma poi vediamo subito sopra i vetri rotti, sembrano, non so, pietre pallonate. Che cosa è successo a quei vetri? È il divertimento di un gruppo di giovani. È un altro dei problemi di questi quartieri, dove c'è l'abbandono scolastico, dove i giovani non hanno spazi, non hanno attenzione da parte di soggetti che cercano di aiutarli a crescere. Che cosa possono fare per passare la giornata? Si divertono nei modi che poi noi consideriamo atti vandalici. Esprimono il disagio che hanno. Le difficoltà di questo quartiere, oltre alla natura sua periferica, sono anche quelle, come lei accennava, anche di una difficoltà di coesione. Abbiamo cercato di fare un progetto di coesione per il quartiere, ma è chiaro che non si costruisce la coesione di un quartiere che per decenni è rimasto abbandonato nel giro di 3 anni. Si è creato come una sorta di ghetto, anche perché non ci sono mezzi per arrivarci, o pochi. Non c'è altro termine. Ghetto è nato e ghetto è rimasto. Un ghetto che potrebbe avere almeno ascensori funzionanti, tetti senza infiltrazioni e più pulizia per tenere lontani i topi. E in fondo è questo il primo miracolo che gli abitanti delle Case Bianche vorrebbero da Papa Francesco, che sembrino un po' meno ghetto questi casermoni dove i ragazzi rinunciano presto a sognare e lasciano la scuola appena possibile per poi ritrovarsi col corpo tatuato e gli occhi che lampeggiano rabbia. Ma perché è arrivato il Papa, se no non mettevano a posto. Qua è ordine del giorno che bruciano le macchine, capita una volta al mese almeno. E perché? Perché qua comunque non sono tutte famiglie come si deve, c'è qualche scappato di casa, quello è. Cioè sono auto rubate? O sono dispetti che si fanno tra di loro, macchine rubate qua che lasciano qui a marcire, ecco cos'è. Poi magari le vogliono togliere dalle balle e le bruciano. O quello che se la vogliono levare di mezzo dicono che gli hanno rubata, sa, per le assicurazioni. Assicurazione, no? Non è che siamo nel Bronx in America, però comunque siamo sempre nella track. Gira un po' di droga. Un po' tanta. Oh, fratello, dimmi. È normale che vengono anche da fuori. Cioè, muovi. Questo comunque è un blocco popolare, è normale che gira un po' più di droga, perché... Ma è così da anni. Qua fumiamo solo le canne, più di quello non facciamo. Però non tutte, ovviamente. Sai, non è andata come credi te. Cambiare vita non è stato semplice, ma l'ho fatto ed ogni merito lo sento mio. Non è il successo che mi ha scelto, fra l'ho scelto io. Anni fa li volevano abbattere questi edifici, che avevano preso il posto di quelle che qui chiamano case minime, costruzioni d'epoca fascista per un'ex area industriale. Ora invece sono diventate tra l'altro meta di un tour alla scoperta della città, pure di quella più lontana, guidati da esodati e clochard, i gatti spiaggiati di Milano. Eppure questo per alcuni è un regalo di Francesco, perché li fa sentire meno soli. E se non lo capisci muto, questo rap non ha futuro, io c'ho da pagare il mutuo. Non è facile. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.